A bordo campo di Dario Ricci. Andiamo di fretta, andiamo di corsa oggi a bordo campo perché siamo con uno degli uomini jet del nuoto italiano, ancora gocciolante dalla piscina degli assoluti di Riccione, una grande speranza azzurra verso Londra 2012, ma già un campione affermato del nostro nuoto. E allora, bando alle ciance, subito un benvenuto a bordo campo a Radio 24 a Luca Dotto. Salve, buongiorno a tutti. E allora, Luca Dotto, per i pochi che non lo conoscessero, basta dire un attimo il palmarès, in cui brilla quell'argento mondiale sui 50 metri stile libero conquistato a Shanghai 2011. Beh, è passato già un po' da quella medaglia, ma oggi com'è il ricordo di quell'argento, Luca? Guarda, infatti, come hai detto bene, è già passato un bel po' di tempo, però il ricordo è ancora vivo. Se chiudo gli occhi mi sembra ieri, anche perché nonostante siano passati un bel po' di mesi faccio ancora fatica ad abituarmi all'idea di aver compiuto una grande impresa, insomma, per quello che è il nuoto italiano. Quindi nonostante sia passato molto tempo lo ricordo ancora come fosse ieri. È un argento straordinario e vale la pena spiegare anche agli appassionati, ma che magari hanno anche qualche curiosità tecnica, che in 50 metri in una piscina olimpica c'è anche molto di tecnico, no? Non si lavora solo di potenza, ma è veramente, voi studiate addirittura come mettere le dita sulla piastra dell'arrivo, vero? Certo, cioè, i 50 metri stile, soprattutto questi, possono sembrare veramente una gara, tra virgolette, per ignoranti, ovvero dove si sfrutta soltanto la forza bruta, l'esplosività e si frulla le braccia a mille per riuscire a raggiungere la fine gara il più presto possibile. Invece no, perché se si sta poco attenti a quello che è il punto di vista tecnico, anche del movimento della bracciata, della sensazione che riusciamo a avere nella mano e appunto anche nella gambata, comunque la prestazione viene fuori, non viene fuori come dovrebbe, insomma, non è esclusivamente forza, ma è molto studio anche in allenamento di tecnica e di sensazioni, assolutamente. Eh sì, anche perché poi il rovescio della medaglia è che su una distanza del genere tempi di recupero, di possibilità di correggere un errore, non ce ne sono. Ci si pensa direttamente la sera guardando il soffitto, no? Il più piccolo errore viene pagato con una prestazione poco più che discreta. Ecco, senti, noi già ti avevamo incoronato velocista principe del nuoto italiano e poco ci manca, vedremo un po', insomma, i prossimi mesi, ma fra poco ne parliamo. Però vallo a dire a Filippo Magnini che ti ha dato la paga nei 100 stili agli assoluti. Il Filippo, re Magno, non molla, eh? Eh no, lui giustamente è il re, e nessuno penso che lo farà abdicare tanto facilmente. Diciamo che cosa sono? Un anno e mezzo, due, che alle gare importanti io gli arrivo davanti. E adesso in quest'ultimo periodo, con appunto gli assoluti anche che ho fatto in questi giorni, ma ha battuto lui questa volta, ma ci sta. Cioè, anche se ha 30 anni non è più un giovane, comunque bisogna sempre ricordarsi che è Filippo Magnini, uno che ha vinto due volte il campionato del mondo nella gara regina dei 100 metri stile libero, quindi non è il primo arrivato, anzi, e a me basta già essere definito principe perché è già un grandissimo onore e penso che, insomma, re non lo sarò mai, perché il re verrà sempre visto Filippo come immagine. Io diventerò qualcos'altro, anche perché sono comunque diverso da lui. Beh, infatti, posti nel palmarès ce ne sono, imperatore, eccetera, eccetera. Insomma, quello vi lasciamo a voi sceglierli, perché vuol dire che arriveranno tante vittorie. Siete simili invece nella tipologia tecnica di nuotatore, no? Rispetto a un Bernard, che ho avuto la possibilità di vederlo da vicino, è un armadio. Voi siete dei nuotatori che privilegiate il galleggiamento, l'aspetto, esatto, tecnico, giusto? La leggerezza, esatto, non siamo dei colossi di 2,10 m per 120 kg di muscoli, tutt'altro. Io comunque, cioè, sono 1,90 m, che però per il nuoto a questi livelli è un'altezza normale, se non quasi da bassa, diciamo. E Filippo è addirittura più basso di me, e siamo siamo tutti e due sugli 80 kg scarsi, quindi non siamo esattamente delle macchine piene di muscoli. Appunto ci concentriamo tutto di più sulla tecnica e sulla leggerezza e sulle sensazioni che magari gente più muscolosa e più forte di noi non ha, quindi quella è la nostra più grande differenza rispetto agli altri ed è la cosa che ci accomuna più di tutte. Eh sì, mi ricordate lo zar Popov e prendetelo come un gran complimento, insomma. Eh beh, certo. Senti, tra l'altro tu hai iniziato la tua esplosione in un momento, diciamo, permettimi di dirlo, favorevole, perché in una fase in cui quei super costumoni che tanto agevolavano i nuotatori più muscolosi e hanno penalizzato in molti casi lo stesso Filippo sono stati messi al bando. Da questo punto di vista, che nuoto ci dobbiamo aspettare a Londra 2012? Dal punto di vista tecnico, quanto incidono ora i costumi cosiddetti normali che adesso indossate? Ma guarda, te hai detto una cosa appunto giustissima, che una volta con i vecchi costumi, appunto quelli con il poliuretano, praticamente i rivestiti di poliuretano, falsavano il nuoto, ovvero bene o male chiunque avesse avuto una buona forza fisica e una discreta tecnica in acqua poteva fare un risultato incredibile. Infatti nei 2 anni che si sono visti questi costumi sono stati battuti oltre 200 record del mondo. Solitamente prima di questi costumi ne venivano battuti 10-15 all'anno, se era tanto. Comunque adesso diciamo che il nuoto si è evoluto nonostante sia tornato un tipo di costume normale, quindi a Londra vedremo delle prestazioni tecniche veramente veramente importanti e penso, cioè non è un azzardo quello che dico, ma penso molto vicine e se non in certi casi addirittura superiori a quelle fatte registrare con i costumi in poliuretano, nonostante non ci sia più l'aiuto di questo. Quindi sarà, penso, a dir mio, l'Olimpiade più competitiva che si sia mai vista. Anche perché poi nelle tue gare non mancano gli avversari, il brasiliano Cielo, no, Magnusson, l'australiano, Alain Bernard sembra ormai un vecchio. Penso che le mie gare, soprattutto quella dei 100 metri, veramente non si sia mai visto un campo di partenti così ampio che possa pretendere al podio la vittoria, veramente. Cioè, nella finale delle Olimpiadi, anche quello in corsia 1, in corsia 8, che di solito sono quelli che si accontentano di far la finale, che è già un grandissimo risultato essere in finale, saranno anche loro veramente da tenere in considerazione come quelli che partono nelle corsie centrali per la vittoria finale. Sarà qualcosa di mai visto, penso. Ecco, dal punto di vista mentale, come ti stai preparando a questo appuntamento? Hai un mental coach, cosa che va molto in voga, e basta guardare nelle corsie vicino, Federica Pellegrini ne fa uno dei suoi punti di forza, no? Sì, in tanti si affidano a questi mental coach cosiddetti, no? Però io, dal canto mio, non usufruisco del loro lavoro e penso che non lo farò mai, perché ho la fortuna di prendere comunque le gare e tutte le competizioni, anche quelle più importanti come mondiali e quella che sarà l'Olimpiade, non dico con leggerezza, ma con tranquillità, cioè con la sola voglia di divertirmi e con la convinzione che ok, mi gioco qualcosa di grande, ma allo stesso tempo non ho nulla da perdere, quindi voglio veramente soltanto divertirmi, cercare di fare il meglio possibile e insomma, se Dio vorrà, verrà qualcosa di grande. Senti, sono 10 minuti di intervista, ancora non ti ho chiesto della storia d'amore tra Filippo e Federica, ti dispiace, no? No, ma che si fa? Si sa, il moto è fatto anche di gossip e gossip lo stanno facendo loro al momento, quindi è una domanda ormai di diritto nell'intervista del moto. Vabbè, per questa volta la evitiamo, dai, ce la teniamo buona vabbè. Per la prossima, anche perché se no magari Rossella Fiammingo, che esatto. È la tua fidanzata, la spadista, potrebbe toccarti con una stoccata e quella puncica, eh? Beh, giustamente, perché cioè, qui lo dico, cioè, noi puntiamo a diventare una coppia più famosa di Filippo e Federica, vorrei dire, noi siamo più giovani, siamo anche più belli, diciamo noi. Ah, quindi la rivalità è lanciata, la sfida è lanciata. Ah beh, certo, una grande sfida, noi siamo gli emergenti, loro sono quelli già confermati, e speriamo che a Londra si faccia un ben notare sia io che Rossella. Ah, hai capito, quindi insomma Filippo Magno deve stare attento sia in vasca che fuori, perché esatto. Dal trono mondo anche del da quel gossip. Punto di vista. E allora Luca Dotto, un grande in bocca al lupo in vista di Londra 2012. Grazie. Ma senti, come te la immagini questa? Tu lo faresti il portabandiera a proposito? Portabandiera io non potrò farlo, penso, ancora per tanti anni, penso nemmeno a Rio 2016. Forse se la mia carriera sarà veramente incredibile potrei farla nelle Olimpiadi del 2020, però c'è sempre quel discorso che noi del nuoto abbiamo la sfortuna che abbiamo le gare subito il giorno dopo e non è facile, perché fare la sfilata con la bandiera è comunque una bella faticaccia da quelli che ce l'hanno raccontata, ovvio, è penso l'onore più grande che si possa mai ricevere in una carriera dello sportivo, fare il portabandiera per la propria nazione al fiato delle Olimpiadi. Però se è l'Olimpiadi, a parte anche innanzitutto per rappresentare il proprio paese e per cercare di vincere medaglie del proprio paese, e questo potrebbe andare a condizionare le gare il giorno dopo, deve stare molto attenti. Se non avessi le gare due giorni dopo, allora la farei molto volentieri. Allora, intanto l'augurio è quello che si crei il problema, vorrebbe dire aver avuto certo, un palmarès all'altezza per entrare in quel lotto di candidati. Guarda, ti potrò rispondere a questa domanda tra 8 anni, dai. Benissimo, appuntamento allora a Radio 24 a bordo campo, e allora ti seguiremo intanto bracciata dopo bracciata, e grazie Luca Dotto per essere stato nostro ospite oggi qui. Grazie a voi, veramente. A bordo campo. Scaldiamo i motori oggi qui a Radio 24 a bordo campo, perché Moto Mondiale che si avvicina, primo appuntamento l'8 aprile in Qatar, e allora cerchiamo di leggere tra i fondi di caffè del prossimo campionato del mondo per capirne di più, per provare a immaginare come andrà, quali saranno i protagonisti, con un ospite d'eccezione, Livio Suppo, marketing manager della Honda HRC, il team del campione del mondo Casey Stoner e di Dani Pedrosa. Benvenuto Livio a bordo campo. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora Livio, che mondiale dobbiamo aspettarci con un assalto al trono di Casey Stoner, neopapà, che certo non ha sicuramente voglia di abdicare da quello che si è visto finora nei test prestagionali. Sa, sicuramente sembra in forma Casey, così come Dani, entrambi i piloti sono andati piuttosto bene in entrambi i test che abbiamo fatto fino adesso, quindi sì, speriamo. La Honda ha vinto il mondiale lo scorso anno dopo qualche anno che non ci riusciva, speriamo di riuscire a ripeterci già subito. Beh, Enzo Ferrari era solito dire che ogni figlio, un pilota perde un secondo al giro. Timore fondato, in casa Honda siete tranquilli da questo punto di vista che il canguro non mollerà? Con tutto rispetto per il Drake, io credo che forse aveva un senso ai suoi tempi questa affermazione, perché le piste erano pericolosissime, i piloti, anche quelli di auto, rischiavano la vita veramente ad ogni curva. Adesso per fortuna le piste sono molto più sicure, anche se purtroppo ogni tanto succede ancora qualcosa di molto brutto, però insomma le piste sono più sicure, credo questo aiuti i neopapà piloti a non pensare più di troppo a quello. Vediamo grandi esempi come Troy Bayliss, che con tre bambini ha ancora vinto i mondiali, Max Biaggi e via dicendo, quindi non credo che la bambina in questo caso farà andare il piano Casey. Tema sicurezza che ci rimanda anche all'impegno diretto di un grande campione che quest'anno ha dato l'addio alle corse, ma che rimarrà vicino al moto mondiale proprio col suo impegno diretto sul tema della sicurezza di piste e piloti, e faccio riferimento a Loris Capirossi. Ecco, quanto può incidere l'esperienza di un campione come Loris nel migliorare quelli che sono ancora i punti oscuri in tema sicurezza del moto mondiale? Sicuramente Loris ha una grandissima esperienza, è uno di quelli che ha corso per più anni di seguito nel mondiale, ha visto una grossa evoluzione, ha fatto già moltissimo, perché è uno di quelli che ha partecipato praticamente sempre alla Safety Commission, quindi sono convinto che potrà solo far bene. Ecco, sicuramente il nostro sport è cresciuto, come dicevo prima, moltissimo da quel punto di vista, sia e soprattutto per quanto riguarda le piste, perché la moto in sé non è tanto pericolosa quanto è pericolosa dove si corre, quindi in città dovete fare molta attenzione, è il posto forse più pericoloso, essendo pieno di ostacoli e di cose che non si muovono, tipo pali o macchine posteggiate, ma ovviamente l'imponderabile è sempre presente. Abbiamo visto purtroppo tutti quest'anno quello che è successo a Marco Simoncelli, o quello che purtroppo è successo ancora la scorsa settimana all'esordio del Mondiale Superbike in una categoria nazionale. Livio, facevi riferimento a Marco Simoncelli. A distanza di qualche mese dalla tragedia di Sepang, qual è l'eredità che il moto mondiale raccoglie da Marco? Ma intanto sicuramente il suo sorriso. Marco è stato purtroppo una meteora in questo ambiente, ma sarà indimenticato perché non era solo un forte pilota, ma era anche una grande personalità, molto aperto, volevano bene veramente tutti, e questo sicuramente è il ricordo più bello che possiamo avere tutti quanti di lui, e questa è la cosa più importante. Poi bisogna ricordare Marco, cercare appunto, come diciamo prima, di ridurre sempre di più la possibilità che tragedie di questo genere possano avvenire, però dobbiamo continuare, e Marco sono sicuro che vorrebbe così. Torniamo al Moto Mondiale 2012 e mi viene da guardare un po' in casa HRC, perché non deve essere facile far convivere Stoner e Pedrosa. Ma non ci possono essere particolari strategie, sono due piloti fortissimi, entrambi in grado di vincere gare e titoli, perché Dani ha vinto molto in 125-250, ha vinto gare in MotoGP, ma non è ancora riuscito a vincere il Mondiale, ma è sicuramente uno di quelli in grado di poterlo fare. Lo scorso anno l'incidente in Francia ha tolto dalla lotta per il titolo fin da praticamente l'inizio della stagione. Quest'anno ci auguriamo ovviamente tutti che possa invece dimostrare il suo valore fino alla fine, e ci auguriamo che siano loro due a giocarsi il Mondiale. Sei l'uomo che ha accompagnato la Ducati all'esordio nella MotoGP e alle prime vittorie proprio con Loris Capirossi. Ti aspettavi queste sofferenze nel matrimonio tra Ducati e Valentino Rossi, e credi che quest'anno possa essere in qualche modo diverso e migliore da quello appena trascorso? Io me lo auguro, sia Valentino che la Ducati hanno dimostrato di essere in grado di vincere, quindi non vedo perché non dovrebbero riuscirci di nuovo. Quindi secondo me non bisogna farsi prendere dallo sconforto. Valentino è un grande campione, la Ducati è una grande casa, io sono sicuro che riusciranno a devolvere al meglio questa nuova moto e a essere protagonisti anche loro. Tra l'altro l'ambiente ne ha bisogno, la MotoGP ha bisogno della prima Ducati competitiva. Sembrano parole buone anche per la Ferrari in Formula 1, passando per un attimo alle quattro ruote. Quali possono essere i contraccolpi a livello di immagine di un'Italia motoristica che con le sue due punte di diamante non riesce a ottenere i risultati sperati? Ma questo mi sembra un po' tipico dell'Italia. In Italia dobbiamo osannare quando si vince e siamo subito pronti a criticare quando si perde. In realtà sia la Ferrari che la Ducati fanno un lavoro incredibile contro aziende, soprattutto la Ducati in questo caso, molto più grosse. In Formula 1 le cose sono un po' cambiate, non ci sono più tanti costruttori direttamente coinvolti, però comunque insomma la Ferrari ha avuto la capacità di vincere il Mondiale anche quando c'erano coinvolte case molto più grosse di lei. Sono due icone del Made in Italy, due aziende che hanno portato, portano e porteranno il Made in Italy in giro per il mondo. Non bisogna, quando le cose non vanno bene, essere subito negativi. L'importante è essere competitivi, essere protagonisti. Io sono sicuro che sia Ferrari che Ducati lo sarà. Grossa novità, grande novità del Moto Mondiale 2012, le moto CRT, no? Questi, per sintetizzare, questa sorta di moto più vicine alle Superbike, non propriamente MotoGP, che pure correranno con le MotoGP. Un'innovazione, un'integrazione che ti trova favorevole, ti convince? Quali invece possono essere i limiti? Intanto è un primo anno, quindi come tutti i primi anni avrà bisogno di un po' di assestamento. I test invernali hanno fatto vedere una ART, cioè sostanzialmente la CRT dell'Aprilia, con des Pugnet in pista Jerez, molto vicino ai prototipi, mentre la BMW Shooter di Colin Edwards, ma soprattutto delle altre CRT con i motori Kawasaki, con dei piloti spagnoli, molto distanti e separati. È chiaro che in questo momento c'è un momento di grossa crisi, un momento un po' di cambiamento per il MotoGP, i prototipi hanno dei costi veramente molto difficili da poter sostenere, soprattutto per i team satellite, cioè per quelli non per le case direttamente impegnate. C'è stata una diminuzione purtroppo delle case presenti in MotoGP, perché non dimentichiamoci che nel 2003, quando il Mondiale Quattro Tempi è nato nel 2002, nel 2003 è entrata anche la Ducati, c'erano tutte le quattro aziende giapponesi, l'Aprilia e la Ducati presenti in pista, quindi erano sei case. Lo scorso anno eravamo rimasti in quattro, quest'anno siamo rimasti in tre, nel senso che anche la Suzuki ha abbandonato, quindi siamo rimasti Honda, Ducati e Yamaha. Io capisco l'organizzatore ha esigenza di avere comunque lo spettacolo in piedi, le 800 ne facevano solo 3 case al mondo, 4 case al mondo, in questo caso appunto quest'anno saremmo stati rimasti solo in 3. Adorno aveva bisogno di aprire le porte delle moto disponibili per i privati, anche a prescindere dal fatto che le case siano meno impegnate. Quindi io credo che non si debba criticare le prestazioni troppo basse di questi CRT attuali o di alcune di queste. I regolamenti in sé, la moto e il pacchetto de Pugnet a Priglia lo dimostra, l'idea non è così sbagliata, bisogna solo lasciare il tempo di queste moto di essere sviluppate meglio e soprattutto di avere dei piloti giusti sopra. Ti lascio con un'ultima domanda, una sorpresa quest'anno in MotoGP, che cosa ci stupirà o chi? Punterei su Stefan Bradl, che è il campione del mondo della Moto2, è un ragazzo molto serio, un approccio molto professionale, buon talento e io spero che come rookie possa essere la sorpresa di quest'anno. Parola di Livio Suppo, è una bella responsabilità ma anche un'incoronazione. Intanto Livio, in bocca al lupo per la stagione che sta per iniziare e grazie per essere stato nostro ospite qui a Bordo Campo. Grazie a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi anche attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sul nostro sito internet. L'appuntamento come d'abitudine per domenica prossima alle 14.30 e il sabato mattina in replica alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci. We'll be right back.